Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati ai Figli di Enea, ancora una puntata homemade, autoprodotta a causa dell'emergenza coronavirus che fa sì che molti di noi lavorino molto spesso da casa, è il mio caso, quindi chiedo scusa agli ascoltatori per le imperfezioni tecniche di questa puntata, ma è una puntata ricca in realtà di contenuti, sono molti gli ospiti e i temi che andremo ad affrontare. Innanzitutto ricordiamo al nostro pubblico, agli ascoltatori di Radio 24, che sono moltissimi gli infermieri, i medici di origini straniere che lavorano in queste ore negli ospedali, nei pronto soccorso, in corsia, negli ambulatori. Noi ne sentiremo alcuni di questi medici che stanno lavorando in queste ore nel nostro paese per curare le persone che si ammalano di coronavirus e non soltanto, perché le emergenze sono tante, come sapete tutto il personale medico è in prima linea in queste ore. Allora do subito il benvenuto al primo nostro ospite, che è il dottor Mohamed Batersh. Benvenuto. Buongiorno a voi, buonasera. Italiano di origini libanesi, è arrivato in Italia qualche anno fa, diciamo, ormai parecchi anni fa, ma ce lo racconterà lei, e lavora per quanto riguarda l'assistenza ai bambini, è un pediatra, lavora in Lombardia, una delle regioni davvero più sotto stress dal punto di vista sanitario, dei numeri dei contagiati, dei numeri purtroppo anche delle vittime, ma si occupa di famiglie, di bambini. Ci racconta qual è la situazione in questo momento in Lombardia? Tra l'altro fa anche parte dell'AMSI, che è l'Associazione Medici Stranieri in Italia, quindi ha un panorama un po' ampio su quella che è la situazione con la quale voi avete a che fare tutti i giorni. Qual è la situazione in Lombardia dal vostro punto di vista e in particolare cosa accade per quanto riguarda i pediatri? Sappiamo che i bambini sono per fortuna poco colpiti da questo virus o comunque in maniera più lieve, però i pediatri vivono una situazione di grande stress. Sì, allora, per quanto riguarda noi come pediatri, per fortuna, come diceva lei, sono i colpiti i casi in la minoranza e non sono in gravi condizioni quando ce l'hanno la positività dell'infezione. I bambini, no? Sì, i bambini, parlando di bambini. E noi risaliamo ai bambini in base a quello che hanno a domicilio tra i parenti, i genitori, i nonni e quant'altro, e quando vanno a contatto con loro e sicuramente magari o sospetti oppure sono positivi i grandi, gli adulti, e rischio che il bambino possa anche essere contagiato. Lei, dottore, ha qualche bambino in cura contagiato da Covid-19? No, per quanto riguarda me personalmente rispetto ad altri colleghi abbiamo delle, diciamo, numeri vari rispetto alla zona dove noi siamo nel servizio. La mia zona, ho sentito 2-3 famiglie che sono in quarantena perché un adulto nella famiglia risultava positivo oppure è stato ricoverato oppure è stato all'ospedale per altri motivi di salute, che rientrano e risultano positivi portando le infezioni dall'ospedale stesso. Lei, dottore, lavora anche alla guardia medica, no? Allora, io faccio pediatra convenzionato con l'ASL nella provincia di Bergamo e quindi facciamo anche abbiamo costruito diverse postazioni, guardia pediatrica del sabato pomeriggio, per eliminare il peso e la fila nel pronto soccorso. Filtriamo noi le visite meno importanti e così il servizio va avanti per dare possibilità anche al genitore di spostarsi, non è possibile, nel lontano dalla sua abitazione. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave e fanno finta di non vedere e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo le spiagge c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore, il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento. Dottore, la provincia di Bergamo è davvero uno dei centri, dei focolai più importanti, e un gruppo di medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII hanno scritto una lettera che contiene delle accuse precise. Dicono che questo coronavirus è l'ebola dei ricchi, ma soprattutto sottolineano come siano necessarie delle cure sul territorio, quindi ambulatoriali, medici di famiglia, per non medicalizzare troppo e quindi far sì che gli ospedali non diventino dei lazzaretti. Allora, ultima notizia che noi abbiamo ricevuto dai distretti, che stanno formulando una unità speciale continuità assistenziale al di fuori del medico di base, anche forse ci sarà anche per i pediatri, per fare un continuo controllo domiciliare, perché il medico di base trovano difficoltà di assistere a domicilio, o per motivi che non hanno il tempo, perché sono carichi, o perché non c'è una sicurezza di disposizione di evitare infezioni recandosi presso il domicilio del malato. E questa era una cosa che lei sottolineava anche per i pediatri, perché diceva mancano i dispositivi per i pediatri, quindi voi andate nelle famiglie dove magari ci sono dei positivi. Appunto, se noi dobbiamo andare a domicilio per visitare il bambino perché la famiglia è in quarantena e non possono portare in ambulatorio il bambino, e noi dobbiamo essere anche garantiti nella sicurezza della nostra salute, che andiamo lì con dispositivi come si deve. Non basta una mascherina chirurgica per entrare nel domicilio del malato, che possiamo essere noi contagiati o possiamo noi contagiare anche gli altri in casa dove andiamo. Quindi c'è questa impossibilità oppure paura che noi possiamo essere infettati. Una volta che il medico è infettato, c'è l'obbligo del quarantena, di stare anche a casa chiudendo l'ambulatorio, e gli assistiti vengono privati dall'assistenza del medico colpito. Lei mi diceva che ci sono anche dei colleghi positivi fra i suoi colleghi della guardia pediatrica. Sì, alcuni colleghi positivi però asintomatici oppure lievi falsi sintomatici riescono a cavarsela senza problemi respiratori o altro di importanza, e altri sono stati ricoverati e che sono ancora ricoverati fino adesso. Aspettano la dimissione una volta accaduta la guarigione. Andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Andrà bene, andrà tutto bene. Perché i bambini, secondo lei, secondo la scienza, sono o asintomatici o presentano dei sintomi lievi? Quali sono le teorie? Come mai? Forse perché hanno una costituzione fisica, anche se è una cosa paradossa, riesce a resistere a certe infezioni e rimane superficiale come una infezione di raffreddamento o mal di gola banale, come succede con altri virus. Lei, lo dicevamo all'inizio, è di origini libanesi. Quando è arrivato in Italia? Nel agosto 1981. Ed è arrivato per studiare? Per studiare ad Ancona, il primo anno che ho seguito ad Ancona, dopodiché per una frana che avvenne all'epoca mi trasferì lì a Roma e proseguivo gli studi a Roma per la laurea e per anche la specializzazione. Grazie dottore, grazie e buona serata. Niente, anche a voi, buona serata a voi. Noi ci fermiamo brevemente perché c'è una piccola pausa, poi andremo a parlare con un medico della Croce Rossa di origini del Camerun, ma italiano ormai da molti anni, poi con un'italiana di origine marocchina che si trova invece in Cina da dicembre e che ha vissuto prima di noi la quarantena, ci racconta come sta andando. A tra poco. Figli di Enea. Eccoci qua, di nuovo con i figli di Enea, storie di nuovi italiani. Questa sera stiamo parlando con personale medico che si sta occupando in queste ore di seguire l'emergenza Covid-19. Noi, come sapete, portiamo sempre alla luce storie di italiani di origine straniera e anche questa sera vi raccontiamo questo tipo di storie. Allora, siamo in collegamento con Roma con il dottor Andy Gazzo. Buonasera innanzitutto, benvenuto. Sì, buonasera, grazie mille per l'ospitalità. Allora, dottore, lei è italiano, originario del Camerun, ormai da parecchi anni in Italia, lavora per la Croce Rossa. Qual è innanzitutto la situazione che voi, con la quale voi vi trovate a lavorare tutti i giorni? Grazie mille. La Croce Rossa italiana è impegnata su tutto il territorio nazionale in queste ore per assistere i cittadini con un servizio di trasporto dai domicili verso gli ospedali, che è un servizio chiaramente che facciamo da sempre. Vorrei ricordare che la Croce Rossa ha in servizio il 70% degli ambulatori di tutto il territorio nazionale, quindi l'impegno dei volontari della Croce Rossa italiana in questo momento è molto molto grande. Poi abbiamo avviato nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, la campagna È il tempo della gentilezza per permettere quindi a tutti i pazienti o a cittadini con vulnerabilità, cittadini anziani, un servizio di consegna dei farmaci e consegna dei farmaci e della spesa. Questo per, diciamo così, avvicinare, cioè risolvere quindi le problematiche che chiaramente la quarantena porta a dover affrontare. Ci sono diversi casi di positività con i quali avete a che fare? Sì, ci sono diversi casi di positività, per questo i volontari su tutto il territorio sono stati hanno a disposizione i dispositivi di protezione individuali per intervenire. Nel trasporto chiaramente devono affrontare anche queste situazioni. Purtroppo anche tra i nostri, anche tra i volontari, abbiamo avuto e abbiamo dei volontari contagiati. Questo è il prezzo che tanti sanitari in questo momento sta pagando. Però questo non ci ferma e siamo compatti nel dare una mano al nostro paese in questo periodo. Ma vedrai che andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove, vedrai che andrà bene. I dispositivi che avete a disposizione sono sufficienti? Perché in questo momento medici, infermieri, ospedalieri in generale, anche personale OS, sappiamo che sono in prima linea e da più fronti sono arrivati appelli ad avere dei dispositivi adeguati. È una raccolta, è davvero una lotta all'ultima mascherina, diciamo così, però con grandissima fatica e con l'aiuto anche dei cittadini che in questo momento stanno contribuendo con le varie raccolte di fondi, stiamo riuscendo comunque a garantire i dispositivi ai nostri volontari. Non è facile, non è assolutamente facile, perché la crisi essendo mondiale il mercato è abbastanza saturo, però su questo come Croce Rossa italiana vogliamo davvero ringraziare tutti i cittadini che ci stanno comunque aiutando e tutte le aziende partner e i nostri donors per l'impegno che hanno assunto per aiutarci a trovare tutti questi dispositivi. Lei quando è arrivato in Italia e perché è arrivato in Italia? Per studiare, per altre ragioni? Sono arrivato 14 anni fa per motivo di studio. Ho studiato medicina all'Università di Varese e dopo la laurea ho iniziato quasi da subito a lavorare con le organizzazioni internazionali e poi con la Croce Rossa italiana. E arriva dal Camerun, dove la situazione per quanto riguarda Covid-19 qual è? Lei ha notizie? Sì, ho delle notizie che non sono purtroppo positive. La situazione le ultime settimane è peggiorata, e anche questa, no, la difficoltà di chi ha una doppia appartenenza, una doppia identità, un po' sei impegnato, sono impegnato in Italia, però con il cuore molto spetto, in lacrime per quello che sta accadendo in Camerun. Però per adesso, lo devo ammettere, i cittadini stanno rispettando tutte le regole di contenimento, e speriamo. Purtroppo in Italia, quando parliamo di una disponibilità di 5.000 posti di terapia intensiva, il Camerun ne conta molto, ma molto meno, e quindi la situazione sarà sicuramente molto più difficile da gestire. Grazie dottore, buona serata. Grazie, buona serata. Andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove, vedrai che andrà bene. Andrà tutto bene, tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene e il male. Tra il bene e il male. Ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torto e dalla ragione, branco di cani senza padrone, che fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere, che si parla di uomini qui, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, all'orizzonte c'è un sole che muore, stretto fra il cielo e la linea del mare, rosso di rabbia non vuole annegare, al soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare. E ora andiamo in Cina, perché nella regione della Cina a sud di Pechino vive un'italiana di origini marocchine che è bloccata lì da dicembre, dove era andata per studiare, per insegnare come ambasciatrice culturale per l'Italia. Lei si chiama Ilham Munsif e abbiamo avuto la sua testimonianza dopo 2 mesi di quarantena via WhatsApp. Sentiamola. Allora, io sono qua in Cina da fine dicembre come ambasciatrice culturale insegnante di lingua e civilizzazione europea a Chuzhou, nello Zhejiang, che è una provincia orientale cinese. E, per 6 settimane, peraltro, è stata la più colpita dai contagi, quindi la seconda dopo Hubei, per poi insomma scalare a terza, visto che si era diffuso anche soprattutto nelle province del sud. Per quanto riguarda la situazione qua, nelle ultime settimane è nettamente migliorata, sono da 3 settimane insomma che si può insomma uscire di casa. Per fare un esempio, ho potuto finalmente mangiare un piatto in compagnia a casa di una collega a cena. Qualche giorno fa, una settimana fa, sono andata a fare un giro in bicicletta in centro, per dire, quindi la situazione è più sicuramente migliorata, più distesa. I vari lockdown sono stati poi rimossi, anche i controlli quartiere a quartiere non ci sono più, sono stati riaperti i collegamenti con le città, di città in città, interprovinciali, e anche con la stessa Hubei. La stessa Hubei che in questa settimana sono stati ripresi i collegamenti di città in città, a parte Wuhan, che deve aspettare fino all'8 aprile e finirà la quarantena anche là. Quindi non siamo più in isolamento, certamente. E come l'ho vissuta? Beh, sono rimasta quasi 2 mesi sola nel mio campus, nell'appartamento al campus, sempre in casa ovviamente, uscite solo 1 o 2 settimane per andare a fare la spesa. Devo dirla, a parte le settimane iniziali un po' drammatiche, insomma poi ci si fa forza e ci si rassegna anche un po' alla situazione, per cui l'ho vissuta abbastanza positivamente, anche perché insomma ero in casa al sicuro, isolata nel mio campus, che essendo un po' fuori dal centro abitato, se questo poteva essere una cosa negativa, in realtà l'ho presa positivamente, almeno avevo meno contatti possibili e meno persone attorno, quindi no, l'ho vissuta bene, piano piano insomma tutto passa. la situazione certo migliora, ma rimane alta l'emergenza, non rientra ovviamente, anche per via dei contagi di ritorno, che stanno aumentando drammaticamente e per cui aumentano di nuovo le preoccupazioni, soprattutto circa gli asintomatici che, come sappiamo, possono contagiare senza, insomma, essere monitorati in qualche maniera. Allora, per contagi di ritorno sì, intendono i contagi importati, quindi di persone che arrivano e tornano dalla Cina, perché in questi mesi molti stranieri se ne sono andati per poi tornare. Adesso che insomma l'emergenza sta rientrando, ma soprattutto molti devono tornare al lavoro. E che dire, per quanto riguarda le ricadute, sì, purtroppo ci sono casi di persone che si riammalano. Molto probabilmente non erano del tutto guarite, o comunque queste ricadute purtroppo ci fanno pensare anche di quanto possa essere blanda la stessa ipotesi, ottimistica, speranzosa, di una certa immunità di gregge, no? Quindi, insomma, sì, ci sono anche questi casi. Pochi, sono eccezione, rarità, però ci sono e sono da tenere in conto. Sì, con le mascherine si esce comunque, ricordiamo che qua in Cina è d'obbligo, ma anche nel resto dell'Asia comunque è molto diffuso il suo uso. Poi vabbè, anche una cosa culturale, purtroppo qua per via dell'inquinamento, insomma, le mascherine si usano molto spesso. Allora, le scuole stanno gradualmente aprendo solo nelle province in cui la situazione epidemiologica era piuttosto lieve, infatti nel nord-ovest, alcune province del nord-est ed in Guizhou, che insomma rimane un po' più a sud. Quindi per 4 milioni di studenti qua in Cina il rientro a scuola c'è stato, per quanto riguarda noi nello Zhejiang no, si parlerà di metà aprile. Pechino non ha deciso un piano in scala nazionale per la riapertura delle scuole, perché tutto dipende dalle province e dalla loro situazione epidemiologica. È tutto per questa puntata dei Figli di Enea. Torniamo sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Da Valentina Furlanetto è tutto. Ciao.